L'obiettivo di questa presentazione è rispondere alla mia esigenza di definire più chiaramente le finalità del lavoro che mi è stato commissionato come sistematizzazione e in questa fase come sintesi e diffusione degli standard. Ho cercato di chiarirmi le idee e ciò che vi chiedo è un feedback sul ragionamento che ho fatto. La domanda da cui parto è: cosa intendiamo per standard? Questo termine infatti non ha un significato univoco e il modo in cui lo si declina determina finalità e risultati molto diversi fra loro. L'obiettivo che mi pongo quindi è vederne i significati, sceglierne uno assieme e condividere una strategia. Un primo significato è uniformare, allineare, da cui ne deriva l'interpretazione come livello o criterio predefinito e uguale per tutti. Non quindi la cosa migliore in assoluto, ma la cosa attualmente disponibile e, relativamente a qualche caratteristica, migliore delle altre. Cito il classico esempio del VHS per i videotape che si è affermato come standard condiviso da tutti, non perché fosse il migliore dell'allora concorrente Betamax, ma perché era più commercializzabile. La qualità migliore, però, era della Betamax, l'altro formato. La strada che finora come gruppo di lavoro abbiamo preso mi sembra vada in questa direzione. Per definire gli standard, infatti, stiamo esplicitando tutte le operazioni che riteniamo debbano essere fatte per realizzare i corsi, per esempio garantire una certa configurazione dell'attrezzatura d'aula. L'obiettivo che ci poniamo, interpretando in questo modo il significato della parola standard, è essenzialmente quello di fare una checklist delle cose indispensabili e adeguarci tutti al rispetto di queste indicazioni. Un'altra interpretazione possibile, invece, è quella per cui qualcosa diviene uno standard perché risponde in modo ottimale a determinate aspettative. Qui approdiamo al significato di standard inteso come livello di qualità del servizio. Se nel 2008 ci capitasse di entrare in un ufficio postale e di ritrovarlo come era nel 1980, rimarremmo inorriditi, perché il livello di prestazione attuale, sebbene migliorabile, è sicuramente più adeguato alle nostre esigenze. È cambiato lo standard. Ora, se decidiamo di realizzare da subito le nostre linee guida interne, realizzando quindi una checklist delle cose da fare e di come farlo quando facciamo un corso, il rischio forte è quello di cadere nell'autoreferenzialità. Di per sé non è una cattiva cosa, ma ci toglie l'opportunità di capire in modo accurato quanto riusciamo a soddisfare le esigenze dei nostri clienti e quindi quanto possiamo migliorare il nostro servizio e in che modo. Fatte le linee guida, infatti, non dovremo più porci il problema di quanto e come siamo efficaci, perché una volta spuntata la voce sedie comode, il nostro lavoro è stato fatto bene, cioè nel rispetto delle linee guida, dando per scontato che questo si traduca automaticamente in un lavoro di qualità. Se scegliamo questa strada, dovremmo però parlare non più di standard, ma di linee guida condivise, uscendo dall'ambiguità. L'obiettivo è fare una lista di item con le caselle di spunta. Cerco di approfondire il mio punto di vista su questo approccio. In questo esempio, lo standard è inteso come dare al cliente il massimo comfort e la massima efficacia dell'attrezzatura che abbiamo a disposizione. Questa impostazione è sicuramente buona e utile, ma siamo sicuri che ciò che noi intendiamo per livello standard di servizio venga interpretato dai nostri clienti nei termini di qualità del servizio? Il cliente che arriva in aula e trova questa attrezzatura penserà questo è un buon servizio? Oppure potrebbe pensare, beh, meno male, è il minimo che potessi aspettarmi. Se invece vogliamo porci come obiettivo il miglioramento delle nostre prestazioni e quindi incrementare la nostra appetibilità sul mercato, allora dovremo cercare di definire degli standard di qualità e quindi intraprendere un'altra strada. Dovremmo, secondo me, approdare ad una stesura di una griglia di analisi finalizzata a valutare il livello delle nostre prestazioni. Anziché contenere item, la nostra griglia dovrà contenere degli indicatori e dei criteri per poter identificare ciascuna volta qual è il livello della nostra prestazione. Una volta realizzata la griglia di analisi e applicata per un tempo definito, possiamo stabilire il livello di prestazione adeguato alle nostre possibilità attuali, quello cui vogliamo tendere e di conseguenza stabilire delle linee guida da rispettare, ma sulla base di criteri di qualità sperimentati. Per approfondire le finalità di questa possibile scelta, devo riprendere brevissimamente, ve lo prometto, alcuni concetti che riguardano il tema della qualità. Il concetto di qualità, inteso come processi e prodotti in grado di soddisfare le esigenze esplicite e implicite del cliente, viene solitamente segmentato in 5 sottoinsiemi di caratteristiche. La qualità attesa, cioè cosa il cliente si aspetta di ricevere acquistando quel servizio o quel prodotto. Essere trattato in un certo modo, avere risposte a certe domande, conseguire certi risultati, ottenere alcune cose concrete, eccetera. La qualità progettata, ossia le azioni che l'ente erogatore del servizio si propone di realizzare per soddisfare le esigenze dei propri clienti. La qualità erogata, ossia cosa effettivamente nell'atto dell'erogazione l'ente erogatore ritiene di dare concretamente ai clienti. Nel nostro caso, un corso di tot ore, un docente con tot esperienza alle spalle, determinati contenuti, determinate attrezzature, una determinata assistenza, eccetera, eccetera. La qualità percepita, e qui torniamo all'esempio che facevo sulla checklist, riguarda ciò che il cliente percepisce come qualità. Ad esempio, mentre l'azienda erogatrice può valutare come qualità il fatto di dare al cliente una residenza accogliente in cui svolgere un corso, il cliente può non percepire affatto questo come fattore di qualità, per esempio ritenendolo scontato, oppure può percepirlo come fattore di qualità negativa, per esempio ritenendo che lo spostarsi dal proprio territorio è di per sé scomodo e sconveniente se altri fattori più importanti non intervengono a modificare il suo giudizio, primo fra tutti la rispondenza del corso di cui sta fruendo agli obiettivi che si pone. Infine, il concetto di qualità paragonata riguarda il confronto costante e sempre presente che il cliente fa tra i servizi che riceve dai vari enti erogatori. Ora, se ci concentriamo troppo sulle caratteristiche di erogazione, prescindendo dagli altri aspetti della qualità, primo fra tutti la rilevazione della qualità attesa, cioè le esigenze del cliente, il rischio è di cadere di nuovo nell'autoreferenzialità. Secondo me dobbiamo scegliere quale finalità vogliamo dare all'implementazione e all'uso degli standard. Il punto è che se scegliamo la via delle linee guida, dobbiamo essere consapevoli che senza un processo precedente di rilevazione e pianificazione della qualità, il loro impiego non si traduce in qualità, ma in contenimento dei possibili disservizi. Tornando all'esempio dell'aula, un'aula confortevole e attrezzata non è indice di qualità del servizio, ma certamente un'aula non confortevole e non attrezzata è indice di un disservizio. Sarebbe come dire che la nostra aspirazione in quanto servizio di formazione è evitare di fare brutte figure. Se invece vogliamo migliorare, allora occorre identificare degli indicatori in grado di dirci come lavoriamo. Se passa questa linea, anziché ragionare genericamente nei termini di cosa dobbiamo fare, che documento dobbiamo produrre, che obiettivo ha quell'azione, che caratteristiche deve avere l'aula, spostiamo la visuale dalla prospettiva del cliente e introduciamo nel modello adottato finora i concetti di cliente e gradiente. Se adottiamo la logica del cliente esterno o interno, anziché chiedermi quale azione devo fare per rispettare lo standard, dovrò pormi altre domande. Chi è il mio cliente in questa fase del processo? Che esigenze ha? Che azione faccio per soddisfarle? Con quale livello di completezza sono riuscito ad effettuare l'azione richiesta? Dovendo rappresentare la differenza di approccio, direi che le linee guida, così come sono attualmente intese, sono l'espressione dell'incrocio tra una nostra centratura sulle nostre usanze e necessità interne, cioè sul gruppo di appartenenza, e dall'altra di una nostra centratura sul compito indicato sulla checklist. Il cambiamento di prospettiva che ha come obiettivo gli standard vede invece da una parte una centratura sulle esigenze del cliente, che vanno di volta in volta esplorate, e dall'altra una centratura sulla metodologia della formazione, all'interno della quale si possono ricavare gli indicatori di cui abbiamo bisogno. Per comprendere meglio la differenza tra i due approcci, prendo a prestito alcuni item del questionario di valutazione che usiamo attualmente. Durante il corso sono stati raggiunti gli obiettivi dichiarati? Possono essere stati raggiunti, ma non sappiamo nulla sulla congruenza degli obiettivi dichiarati dal formatore con le esigenze del cliente, quindi sulla qualità di questi obiettivi dichiarati. Il livello di formazione erogata è stato adeguato alle mie aspettative? Sicuramente può essere adeguato, ma non è chiaro di quale aspettative stiamo parlando. Aspettative relative a quale aspetto? Comfort? Difficoltà del corso? Esaustività? Livello di preparazione raggiunto attraverso questo corso? Le metodologie formative sono state di tipo partecipativo e coerenti con i contenuti del laboratorio? Qui ci avviciniamo ai principi della qualità. Sappiamo per certo, infatti, che nella formazione degli adulti le metodologie partecipative funzionano di più. Però anche qui non sappiamo di quali metodologie parliamo e se sono state efficaci o meno. I relatori erano preparati e competenti? Sicuramente lo erano, ma per la qualità è più interessante sapere se sono stati preparati nell'aiutarmi ad apprendere cose spendibili nella mia professione. Ora, se vogliamo uno strumento che ci aiuti a migliorare la qualità, possiamo partire dalla checklist che abbiamo fatto finora e possiamo svilupparla nel modo che io vi propongo, ma naturalmente è una cosa che possiamo elaborare diversamente e sicuramente assieme. Allora, innanzitutto premetto che ciò che segue serve a rappresentare un modello e non è detto che corrisponda al prodotto finale. Le cose che vedrete servono a farvi capire l'impostazione che vorrei dare e sono solamente esemplificative. Allora, questa potrebbe essere una griglia per la rilevazione della qualità progettata. Ne dovremmo stendere almeno un'altra per la qualità erogata e un'altra per la qualità percepita. Quest'ultima, naturalmente, in stretto collegamento con i questionari di gradimento e con il sistema di valutazione dell'apprendimento formativo e sommativo. Nella prima colonna a sinistra potremmo inserire le varie fasi che la nostra progettazione dovrà prevedere. Nella seconda colonna potremmo mettere l'azione prevista. Nelle colonne centrali potremmo mettere le voci che riguardano il cliente. Qui si risponderà alla domanda: a chi è diretta l'azione prevista? Questo ci permetterebbe di collegare ciascuna azione ad un'esigenza reale riscontrata in un cliente interno o esterno. Nelle ultime colonne potremo invece inserire gli indicatori che ci permettono di dare una valutazione, sicuramente più qualitativa che quantitativa, del livello di qualità con cui sono riuscito ad esprimere una certa azione prevista nella progettazione. Nella slide successiva cerco di fare un esempio concreto. Prendiamo ad esempio la fase di avvio di un progetto di formazione. Un'azione da fare per poter realizzare una buona progettazione è la rilevazione delle caratteristiche di contesto in cui nasce la domanda di formazione. Questa azione è diretta principalmente a soddisfare le esigenze del mio committente e dei miei destinatari, che sono quelli che vivono il contesto in cui nasce la domanda. Facendo riferimento alla teoria, potremmo dire che la domanda di formazione nasce proprio da una difficoltà che il committente sperimenta nel proprio contesto di riferimento. La competenza da acquisire serve a superare il problema. Di conseguenza possiamo ipotizzare che tanto più riesco a rilevare e comprendere le caratteristiche del contesto di riferimento, tanto più sarò messo nella condizione di fare una progettazione mirata alle esigenze del cliente. Le colonne relative alla voce gradiente fanno riferimento agli indicatori che esprimono quanto sono riuscito a realizzare pienamente un'azione che riteniamo importante per la finalità di soddisfazione delle esigenze del cliente. Vi ricordo la premessa per cui le voci che leggete sono assolutamente esemplificative. Andranno accuratamente cercate assieme, tarate sul nostro approccio al lavoro e condivise. Le colonne relative alla voce gradiente fanno riferimento agli indicatori che esprimono quanto sono riuscito a realizzare pienamente un'azione che riteniamo importante per la finalità di soddisfazione delle esigenze del cliente. Vi ricordo la premessa per cui le voci che leggete sono assolutamente esemplificative. Andranno accuratamente cercate assieme, tarate sul nostro approccio al lavoro e condivise. Le colonne relative alle voci livello e motivazione andrebbero a questo punto compilate con l'indicazione da parte di chi progetta il corso, di chi si occupa della rilevazione, di quanto si è riusciti a realizzare un'azione e con l'indicazione della motivazione nel caso in cui il punteggio sia basso. L'obiettivo è monitorare la qualità e capire qual è il nostro livello medio attuale. Quali sono i problemi principali che incontriamo quando progettiamo ed eroghiamo, come è possibile risolverli. Ma tale approccio sarebbe utile anche in corso d'opera per lavorare maggiormente, proprio durante la progettazione, sugli aspetti troppo carenti. Ad esempio, potremmo scoprire che la rilevazione delle caratteristiche del contesto non viene quasi mai svolta perché i tempi sono sempre troppo stretti, o perché in un dato contesto i committenti non sono collaborativi, o perché non abbiamo sufficienti competenze, e così via. Se questa impostazione regge, dovremmo arrivare a progettare tre griglie specifiche per ciascun aspetto della qualità, ma con gli indicatori di ciascuna correlati ovviamente agli altri. Gli indicatori della griglia della qualità percepita costituiranno essenzialmente gli item dei questionari che sottoporremo al cliente e, perché no, al committente. Il monitoraggio dei vari aspetti del nostro lavoro, secondo gli indicatori di qualità individuati, ci darebbe la possibilità di incrementare in maniera mirata la qualità. La condivisione degli indicatori ci darebbe allo stesso tempo la possibilità di allineare la nostra operatività. Ora però, affinché le griglie non rimangano lettera morta, occorre mettere in piedi un processo di progettazione delle griglie stesse che abbia determinate caratteristiche. Innanzitutto, trattandosi di aspetti che riguardano la nostra specializzazione lavorativa, parto dal presupposto che non c'è fra noi una persona che ne sa più degli altri. Il principio su cui mi baso è questo: nessuno sa tutto, tutti sanno qualcosa, tutti insieme ne sappiamo molto. Il secondo principio su cui mi baso è che le indicazioni calate dall'alto servono a poco. È più utile mettere in piedi un processo efficace di coprogettazione, che avrei già in mente ma che non vi espongo sia perché vi ho rubato già troppo tempo, sia perché ho bisogno di dare una risposta alla domanda dalla quale sono partito. E cioè, quale finalità vogliamo dare all'implementazione e all'uso degli standard?